Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che torna su Gianni Rodari, perché in questo finale di centenario sono tanti ancora i saggi, volumi, le raccolte che escono a nome del grande narratore di Omegna. L'ultimo che vogliamo segnalare è questo Ambiente Rodari, con tanti filastrocche dello stesso Rodari, curato da Pino Boero, che è sicuramente uno dei maggiori interpreti, se non il maggiore conoscitore dell'opera rodariana. Parliamo di un libro illustrato per bambini dai 6 anni, ovvero sia una raccolta di storie e filastrocche di Gianni Rodari, dedicate al tema della natura, quindi l'ambiente, grande attualità, illustrate da 20 illustratori internazionali, storie per crescere e imparare il rispetto della vita e del mondo che ci circonda, giocando con le parole magiche del maestro della fantasia. Un libro che parla quindi di natura, di sostenibilità, di ambienti, di ecosistema, di animali e del crescere. Morina Moretti ha interpellato proprio il curatore Pino Boero. Dopo uno stacco musicale, sentiamo l'intervista. Pino Boero, lei è il curatore di questo ultimo libro uscito per Einaudi Ragazzi, che è Ambiente Rodari. È un libro per bambini, illustrato, molto molto bello, molto interessante, ma soprattutto c'entra questo tema che è il Rodari legato alla sua sensibilità per l'ambiente. Possiamo dirla così? Possiamo dire che fosse un ecologista? Ma forse negli anni in cui scriveva Rodari il termine ecologista non era ancora così diffuso, né il tema aveva tutta la drammaticità che ha oggi. Sicuramente però Rodari avvertiva con la sensibilità, con l'intelligenza che lo caratterizzava, elementi di criticità nel rapporto uomo-ambiente, o se vogliamo dirla come si diceva allora, uomo-natura. Per cui alcune filastrocche estremamente così intelligenti, ad esempio quella delle radioline che disturbano in qualche modo la quiete del bosco, insieme alle cartacce che i gitanti poco accorti lasciano in giro, è una filastrocca, tanto per citarne una, divertente, ma al fondo a questa attenzione di Rodari per in qualche modo anche la salvaguardia, se vogliamo, dell'ambiente, della natura, oppure i uccelli che non trovano altri alberi che le antenne televisive, e quindi il tema anche di questo depauperamento, se vogliamo, del verde nelle città, tema dei bambini che non possono giocare all'aperto. Sono tutti elementi che davvero contribuiscono a far sì che Rodari avesse e percepisse questa importanza del rapporto uomo-natura, questa importanza del rispetto che l'uomo deve alla natura, è sempre però fatto con il tono ironico, leggero, che Rodari sapeva dare anche al suo impegno. Quindi questo libro, che è un libro dedicato ai bambini, ma sappiamo poi che Rodari parla sempre anche ai grandi, oppure noi, diciamo, adulti, percepiamo davvero molti messaggi interessanti. Oggi è di estrema attualità, naturalmente. La domanda è se i bambini che leggono questi libri, questi racconti, ancora proprio percepiscono quel messaggio in maniera, diciamo, immediata. Ma io credo di sì, alcuni elementi, giusto questa degli alberi, dei boschi, del fatto che gli spazi per giocare non ci siano, sono elementi che sono ancora presenti nella percezione dei bambini di oggi, anzi direi che alcuni elementi sono più presenti forse nella percezione dei bambini di oggi. La povertà di spazi indubbiamente, se era forte negli anni 60, immaginiamo oggi cosa sono gli spazi nelle città. Quindi io credo che ci sia, poi non è detto che sempre ci sono differenze fra i lettori, per fortuna, infantili e i lettori adulti, quindi ci sono modi sicuramente di lettura diversi, ma io credo che qualcosa ai bambini di oggi passi. Poi, essendo anche un volume illustrato, ampiezza, con colore e con vivacità, io credo che comunque un messaggio serio e importante riesca a passare. In mano alzi l'antenna, controlli la batteria, torturi nervosamente la manopola della sintonia. In vano ti domandi che mistero c'è sotto, perché la radiolina si è taciuta di botto. Lasciato senza canzoni, senza i soliti rumori, non si è mai visto, dici, lo sciopero dei transistori. Su via, per una volta, goditi in pace il silenzio e le sue voci ascolta. Ascolta Radio Bosco, che trasmette di ramo in ramo la musica della vita, il suo eterno richiamo. Ascolta il canto del vento, il mormorio degli uccelli e tra i nidi le dolci chiacchiere degli uccelli. Segui di foglia in foglia, di sentiero in sentiero, la natura che si nasconde nel suo verde mistero. Pino Boero, in questo anno anche di più, per lei soprattutto e per molti, di grande lavoro intorno alla figura di Rodari come scrittore, come giornalista, come pedagogista e molto altro. Voi avete indagato degli aspetti che magari erano rimasti un po' più laterali. Un appunto è questa sua sensibilità per l'ambiente, ma anche per le bambine, per esempio. In questo anno dedicato al centenario, che cosa è emerso della figura di Rodari che magari prima era rimasto un pochino più nell'ombra? Ma io credo che siano emerse tante cose, due sono già quelle citate, lo spazio delle bambine, che ormai questo saggio di Camarda che data mi pare 3 anni, però insomma è sempre attuale, e anche questo discorso sull'ambiente. Io credo che però ci possa essere anche altro, cioè ad esempio l'attenzione che qualcuno ha dato alla parte didattica, ma non didattica perché Rodari fosse un banale didatta che si metteva a disegnare, ma l'estensione che la didattica di Rodari aveva a dei nomi importanti, cioè non dimentichiamo che Grammatica della Fantasia, che sembra una cuciniera delle storie, un Artusi delle storie, come diceva lui, in realtà è un libro che ha al fondo oltre 40 testi di linguistica, sullo strutturalismo, di filosofia, di pedagogia, e quindi uno sguardo un po' più profondo anche a quelle che era la dimensione dell'intellettuale Rodari, cioè la dimensione colta, di studio e di riflessione. E questo è un tema che è stato guardato anche con una certa attenzione. E poi un po' tutte quelle voci che abbiamo messo in quell'altro volume di Eletta, curato da Vanessa Roghi e da me, e un po' voci sui quotidiani, un po' voci anche sui giornalini, cioè tutta una serie. Ad esempio la collaborazione di Rodari al Corriere dei Piccoli è stato uno degli elementi trainanti della fama di Rodari. Dagli anni 60 il Corriere dei Piccoli sicuramente vendeva più dei libri e quindi il nome di Rodari circolava, e attraverso il Corriere dei Piccoli Rodari faceva rifare le sue filastrocche, le sue storie. Quindi credo che ci sia stata occasione di approfondimenti in certi settori, probabilmente molto resta ancora da fare. Lo stesso spazio del museo che si è creato a Domenia va un po' nella direzione di offrire, invece di chiamarlo il binomio fantastico oppure la parola gettata nello stagno, si è inventato il binomio elettrico, perché mette insieme delle combinazioni di parole, stimola a farne altre, a fare altre frasi giocate sull'assurdo. Quindi io credo che un'attenzione anche agli stimoli che Rodari dà dal punto di vista ludico, ma ludico anche educativo, ci siano e siano importanti. Il gioco è passione che ti muove, amici da incontrare, e se finisci hai voglia di ricominciare, è un mondo da esplorare. da soli in compagnia, per crescere e imparare un tuffo nella fantasia. Gioca, gioca, gioca, gioca. Il gioco è scoprire ciò che sei, capire dove vai. Sorridi alla tua vita, allora sì che vincerai. Linguaggio universale che unisce ad ogni età. Uniti nella festa, un urlo di felicità. Gioca, gioca, gioca, gioca. Gioca, gioca e mettici il cuore. Ora gioca, che c'è da imparare. Gioca, gioca e fatti sentire. Ora gioca, che linfa vitale per te. Il gioco è desiderio di provare, coraggio di sbagliare, con forza ed entusiasmo pronti a ripartire. Sai, le regole e il rispetto non sono un limite. Crea e vivi il tempo, i sogni belli dentro te. Gioca, gioca, gioca, gioca, gioca, gioca e mettici il cuore. Ora gioca, che c'è da imparare. Gioca, gioca e fatti sentire. Ora gioca, nasce e cresce dentro te. Anima sempre il tuo pensiero, muove piedi e mani per tracciare in te un nuovo sentiero. Pino Boero, possiamo tirare un bilancio di questo centenario che poi si è prolungato a causa Covid, del lavoro svolto e di quello che c'è ancora da fare, perché l'impressione è che ci sia ancora tantissima carne al fuoco, come dire, che si sia scoperto una sorta di pentolone dove uno più va a guardare, più trova elementi e cose e possibilità di studio intorno a questa figura. Quindi sembrerebbe quasi che non debba finire l'anno rodariano. Io penso che sia giusto che non finisca, nel senso che siamo partiti da Omegna a inventarci il ricentenario, che d'altra parte, visto che non si è fatto il centenario, Rodari meritava un ricentenario, e quest'anno si sono fatte molte cose dappertutto, compreso questa cosa nel museo, che mi pare dal punto di vista rappresentativo è molto rilevante. Però è chiaro che cose da fare ne esistono ancora molte. Ad esempio, una, la possibilità di avere, come era a Orvieto, ma io non so se Orvieto abbia continuato a tenere i libri e le traduzioni, ma a tenere, insomma, vivo l'idea di un centro studi, la possibilità di avere in un unico posto, biblioteca naturalmente, cosa a disposizione, i materiali che sono le traduzioni in molte lingue e che potrebbero aprire nuovi spazi, come è stato tradotto, come è stato accettato in certi paesi, non sempre è stato accettato, quando è arrivato in ritardo con le traduzioni o quando è stato in anticipo. Insomma, tutto questo discorso sulle traduzioni resta in parte, a mio parere, ancora da fare. Un centro studi da costituire, o perlomeno da ragionare sulle carte di Rodari, dico carte come articoli per adulti, sicuramente sono stati fatti fin dagli anni Ottanta un sacco di lavori, penso a Carmine Dello Puga, tutto è su Rodari adulto o per adulti, però io credo che una riflessione critica su questi possa ancora utilmente essere fatta proprio in campo educativo. L'altra cosa che mi viene in mente sono i disegni di Rodari, che meriterebbero una mostra da sola, piccola mostra, perché oltre ad avere l'orecchio assoluto a livello musicale, aveva anche una buona penna, una buona matita, e quindi quell'aspetto lì potrebbe essere anche studiato, osservato. Io credo che lavoro ce ne sia molto, ma come d'altra parte non solo per Rodari, ma per mille altri autori, insomma la critica non si ferma. Io credo l'unica cosa, non mi augurerei che sulla base di questo nome che circola continui quello stilicidio che spesso avviene in rete, e quella che chiede: ah, mi mandate una poesia di Rodari che così la leggo in classe ai bambini, un'altra che dice: ma questa è di Rodari. Quelle cose se invece di valorizzare il nome, ripeto, il nome di un intellettuale, di uno scrittore di rilievo, ne abbassano un po' il ruolo a una sorta di paroliere che viene bene per tutti i giorni. Questo io spero che il lavoro che è stato fatto da tanti intorno a Rodari, le manifestazioni che sono state estremamente serie, pur essendo ludiche tante, proprio disincentivi, un abuso nel Rodari che tutto, che come garanzia di modernità ci mette un po' di Rodari, ci mette una filastrochina e va bene. In rete ne circolano tante, talvolta circolano anche cose con nome Rodari che non sono di Rodari, quindi io questo non mi augurerei. Vorrei invece una riflessione su quello che è stato, sulla portata dei suoi scritti per bambini e per adulti. Un signore di Scandicci, un signore di Scandicci, buttava le castagne, buttava le castagne e mangiava i ricci. Un suo amico di Lastrasigna, un suo amico di Lastrasigna, buttava via i pinoli, buttava via i pinoli e mangiava la pigna. Quel suo amico di Lastrasigna. Tanta gente non lo sa, non ci pensa e non si crucia, la vita lo butta via e mangia soltanto la buccia. Suo cugino in quel di Prato buttava il cioccolato e mangiava la carta. Suo cugino in quel di Prato. Un parente di Figline, un parente di Figline, buttava via le rose, buttava via le rose e odorava le spine. Buttava i mari pesci, buttava i mari pesci e mangiava le lenze. Un compare di Barberino, un compare di Barberino, mangiava il bicchiere e buttava il vino. E da Pino Boero, Rodari e la natura andiamo alla solitudine dei figli e la salute mentale nell'esordiente Figlia di Luna, scritta da Greta Xella. Rachele Copparoni ci presenta il libro proprio con la voce di Greta Xella. Ascoltiamo. Do il benvenuto a Greta Xella, autrice del graphic novel Figlia di Luna, edita da Bau Publishing. Ciao Greta, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, ciao a tutti e grazie. Allora, questa è la tua prima graphic novel come autrice unica di storie e disegni. Come ti sei approcciata, Greta, a questo lavoro? Sì, questo è il mio primo lavoro veramente lungo, perché comunque sono 250 pagine, quindi un bel malloppetto. E nulla, la lavorazione è stata, me la sono presa abbastanza lunga, anche perché appunto era il mio primo libro. E nel primo anno ho sviscerato e steso bene la storia. Dopodiché mi sono messa al lavoro sulle tavole l'anno successivo, e il terzo anno è stato praticamente solo di colorazione. Complice il Covid, diciamo che ho avuto anche un po' di tempo in più. Certo, e tra l'altro è proprio appena uscito, perché se non sbaglio dal 30 ottobre. Fresco di stampa. Esatto, fresco di stampa. Ma ti va di raccontarci un po' la storia di base del fumetto? Molto volentieri. Allora, Figlia di Luna parla, innanzitutto è un'avventura fantastica, il vestito è quello di un'avventura fantastica, il classico viaggio dell'eroe dove il protagonista deve attraversare mille e un peripezie per arrivare a non per forza un risultato, ma sicuramente a un finale. E parla di una ragazzina che, come tanti ragazzini, soprattutto mi ricollego sempre all'anno appena passato, si ritrovano a doversela cavare da soli. Per un motivo o per un altro si ritrovano fisicamente o psicologicamente soli, e la storia che ho voluto stendere io parla appunto di Tia, che rimane sola e un po' esclusa dalla sua famiglia, all'interno della quale ci sono dei problemi legati alla malattia della mamma, molto misteriosa e non comprensibile bene, e dovrà essere lei alla fine, per una serie di motivi, a risolvere o comunque cercare di risolvere questo problema, che è sia della sua famiglia ma è anche suo, perché lei vorrebbe essere coinvolta negli affari di famiglia. Quale pensi che sia la cosa che rimanga di più al lettore o alla lettrice che legge appunto il tuo fumetto? Allora, non lo so ancora, perché, come dicevi ancora tu prima, il libro è uscito da pochissimo, però sicuramente il mio intento era quello di lasciare un cambio di punto di vista, soprattutto quello sulle malattie mentali, che è, secondo me, un pochino da sdoganare, e quindi ho cercato di dare un pochino una visione diversa, non per forza nuova, però diversa dal solito a questo fatto qui. Hai deciso anche di ambientare il libro all'interno appunto di un'ambientazione fantasy, come mai questa scelta? Ma un po' per la mia formazione, perché io sono di fine anni 80 e quindi sono cresciuta un po' con i film come La Storia Infinita, Harry Potter, quindi per me sono stati dei babysitter e dopo dei ganci pazzeschi per scrivere la storia. Inoltre credo che avere dei punti di riferimento non realistici aiuti di più il lettore a non partire con dei preconcetti, quindi ad abbandonarsi totalmente alla storia, a seguirmi il più possibile nel ragionamento che ho proposto. Certo, ma secondo te ha un pubblico di riferimento questo tuo racconto? Cioè, nel senso, può essere letto dai più piccolini, dai più piccini, quindi dai bambini, dalle bambine, fino a adulti, o a una fascia invece precisa, ecco? Allora, io sicuramente mi sono rivolta alla fascia young adult, quindi dai 11-13 anni in su, però il tipo di risposte che ho avuto adesso è veramente molto più vasto. Hanno comprato il mio libro per bambine e bambini di 5 anni, 6 anni, magari lo leggeranno accompagnati dai genitori, dipende tantissimo da che cosa il bambino o la bambina ha incontrato durante la sua vita. Può anche essere che una persona non ne abbia mai bisogno del mio libro fino anche a età molto adulte, quindi è veramente molto flessibile. Io ho cercato di non inserire codici né troppo sessuali, anzi affatto, non ci sono sessualizzazioni, non c'è violenza esplicita, proprio perché volevo che fosse leggibile soprattutto da un pubblico veramente molto giovane, ovviamente anche da un pubblico più adulto. Se uno non dovesse trovare punti di riferimento all'interno della storia, spero che si riesca a godere quel viaggio fantasy di cui parlavamo all'inizio, il viaggio dell'eroe e basta. Certo, e come ultima domanda invece, Greta, volevo tornare un po' alle origini, diciamo, quindi da dove ti è arrivato lo spunto per raccontare Figlia di Luna? Domanda dolente, no, non è vero, scherzo. Viene da un'esigenza di raccontare un fatto successo a me in prima persona, quando appunto avevo dagli 11 ai 12 anni, ho avuto una persona in famiglia con appunto dei disordini mentali, ed è stato molto complicato più che altro per tutta la mia famiglia, anche figlia del tempo in cui vivevamo, dove certi dogmi erano ancora non sdoganati, quindi era più complicato parlarne anche soltanto tra di noi. E quindi alla fine, arrivata alla mia veneranda età che non dirò, ho deciso che era arrivato il momento di togliersi questo tarlo dalla testa e volerlo snocciolare per me stessa in primis, e poi appunto sperando che potesse essere utile anche per qualcun altro. Into space.